strade al mattino, il troppo traffico mi sfianca. Lo cantava Battiato, io faccio l'assessore, ma vorrei andare in banca. Le buche, le piante, le strade, le piazze, i calabroni. Ogni scusa è buona alla gente di qua per rompermi i coglioni. Che io avevo in testa tutta un'altra idea della mia vita. Volevo una storia che fosse infinita come una partita. E invece no, tocca fare l'assessore. Non ho detto il calciatore, il commendatore. No, avete capito bene, faccio l'assessore. Io che al mattino in cortile giocavo al pallone, vedevo fuori classe centravanti che so, almeno stop. E invece no, sto in questo ufficio di merda con l'urbanista che mi spiega che questa piazza così non si era mai vista. E io penso che vorrei essere in un campo di pallone. E invece no, a fare l'assessore, non ho detto l'attore, il calciatore, il commendatore, non avete capito.